Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Oggi tantissimi argomenti sul tavolo, avremo degli ospiti in trasmissione, parleremo di legalità, ma prima volevo lanciarvi due notizie importanti. Prendete appunto carta e penna e prendete questo appunto che sicuramente è di certo interesse. Allora, il dottor Sorrentino, direttore responsabile di radiodiagnostica presso il San Raffaele Giglio, il Giglio di Cefaluna più San Raffaele, è lieto di invitarvi, pensate, a un incontro che si terrà giorno 15 dicembre presso Villa dei Melograni in via del Giubileo Magno 2 a Cefalù, dalle ore 9 in poi. Perché vi invita? Perché c'è una tematica importante che il professore, il dottor Sorrentino, vuole porre alla vostra attenzione: le problematiche del pavimento pelvico, approccio clinico del medico di medicina generale, istruzioni per l'uso. Quindi vi ricordo l'appuntamento, il dottor Sorrentino vi invita sin da adesso per giorno 15 dicembre, quindi dopodomani, a Cefalù, dove? In Villa dei Melograni, in via del Giubileo Magno numero 2, cominciando dalle ore 9, si parlerà di diverse tematiche, l'appuntamento poi avrà termine, c'è il caffè break alle 12, a 12:20 potenziali evocati ed elettromiografia, quindi si parlerà veramente di una tematica straordinaria, si concluderà poi il tutto intorno alle 14:30. Responsabile scientifico è il dottor Dario Sorrentino. Comitato scientifico è composto dal dottor Dario Sorrentino, dottor Arturo Vaccari, della dottoressa Cristina Ferrante, e quindi c'è un bel parterre di dottori che possono delucidarvi e rispondere alle vostre domande, ma soprattutto delucidarvi su questa tematica che è appunto le problematiche del pavimento pelvico, approccio clinico del medico di medicina generale, istruzioni per l'uso. Poi durante l'arco della settimana ci sono stati diversi collegamenti in diretta con Strasburgo, dove c'è il Parlamento europeo. I temi sul tavolo sono naturalmente diversi, come possiamo trattare in pillole d'Europa: sono Nobel per la pace assegnato ai cittadini dell'Europa, bilancio europeo per il 2013, premio Sakharov per la libertà di pensiero assegnato a due iraniane in galera, il brevetto unico europeo, nuove regole per il trasporto animali. E dunque l'amico, il collega Lombardo ci ha erudito da Strasburgo. Non sappiamo se oggi è nelle possibilità anche tecniche di mettersi in contatto con noi. Se ciò fosse possibile, ci ragguaglierà ancora di più su quelle che sono stati gli incontri, le tematiche che si sono affrontate appunto a Strasburgo presso il Parlamento europeo. Io mi fermerei, no, c'è un altro appuntamento prima di dare la linea alla regia. C'è un altro appuntamento importante, ce l'abbiamo qui in scaletta, eccolo qua. Allora, al liceo artistico Diego Bianca Amato di Cefalù, conferenza il 14, quindi domani, dicembre 2012, alle ore 11:30. Interverranno il professor Filippo Greco, il professor Nicolò Mannino, presidente tra l'altro del Parlamento della Legalità, l'abbiamo avuto diverse volte ospite in trasmissione via cavo, il dottor Mario Lopresti, la moderatrice, e la professoressa Loredana Ollà. Il tema naturalmente è la conferenza sulla legalità, quindi si parlerà sicuramente a 360 gradi di cosa voglia dire oggi legalità, partendo anche da uno dei libri, il primo dei libri, il più importante per noi cattolici, che è la Bibbia, e la differenza che c'è tra la giustizia divina e la giustizia invece quella terrena. Detto questo, io direi di dare la linea alla regia, perché ci sono i consigli per gli acquisti, al termine del quale rientreremo in trasmissione. Linea alla regia, tra poco. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Cry. Allora, rieccoci in diretta un'altra volta. Due argomenti, anzi tre, che mi stanno particolarmente a cuore. Il primo di questi l'abbiamo trattato due settimane fa, avendo in studio la presidente di un'associazione benemerita che si occupava della violenza sulle donne. Ahimè, a distanza di pochissimi giorni, altre due donne purtroppo ci hanno rimesso la vita. Sono morte e uccise dai loro compagni. Uno poi si è suicidato e l'altro invece è stato arrestato. Allora, ancora una volta, torniamo su questo tema che è in fase esponenziale ancora, in fase di recrudescenza. Invitiamo i signori uomini ad essere un pochino più pacati quando una storia finisce, quando una donna non ne può più, insomma, è bene lasciare perdere tutto e naturalmente in maniera civile lasciarsi, magari senza salutarsi, però lasciarsi in maniera civile senza andare oltre e addirittura stroncare delle vite umane, perché non ce n'è assolutamente motivo. Ognuno è libero di stare o non stare con una persona senza che ne venga vessata o costretta a farlo. L'altro argomento che ieri sera era su tutto il palinsesto televisivo a 360 gradi, soprattutto su Porta a Porta di Bruno Vespa, il Berlusconi sì, Berlusconi no, insomma il Cavaliere sta facendo veramente le bizze. A livello europeo sapete che non è ben digerito, le motivazioni non sto qui ad elencarvele io, siete abbastanza in gamba per ascoltare e vedere alla televisione con i vostri occhi e le vostre orecchie, però sicuramente ultimamente non sta facendo delle belle figure. C'è una persona a 70 anni che dice: una volta mi candido, poi si fanno le primarie, poi le primarie non si fanno, poi se si candida Monti non mi candido io, faccio un passo indietro. Però il governo Monti, da lui appoggiato tra l'altro, ha fatto peggio che di quello che ho fatto io, insomma non si capisce veramente nulla. L'augurio è che le prossime elezioni, che sono le porte, con questo marasma politico che c'è, certamente non ci lascia ben sperare per un futuro sereno e tranquillo per la nostra nazione, per il nostro Stato. Mentre la regione, fino a questo momento, almeno da quello che si legge dai giornali, da quello che si evince dai mass media, il neo presidente della regione Crocetta si sta muovendo bene. Soprattutto, vi ricorderete, qualche tempo fa parlavo di formazione, di CEFOP, ma di altri di altri argomenti attinenti alla formazione professionale, beh, finalmente si sta facendo, scusate, si sta facendo chiarezza sui rapporti soprattutto tra i parlamentari e i familiari di quest'ultimi che sono all'interno della formazione. Sta indagando la magistratura, ci sono le forze dell'ordine squinzagliate a destra e a manca per capire se ci sono state le connivenze, se ci sono stati dei progetti lucrosi. Questo sta alla magistratura a stabilirlo, ma sicuramente il presidente Crocetta, dopo aver fatto pulizia dei portavoce, circa 21 giornalisti, colleghi giornalisti che sono stati estromessi dall'ARS, una frase mi è rimasta emblematica, mi è rimasta impressa da parte di Crocetta quando disse a uno dei giornalisti: io a lei a Bruxelles non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito, dunque lei qui mangia soltanto, per farvi capire, pane a tradimento. 21 giornalisti quindi messi alla porta, altri grossi manager, non so, non li posso quantificare, ma vado così a memoria, una ventina, che percepivano stipendi di una certa consistenza, sono stati sbattuti letteralmente fuori. Quindi fin qui Crocetta sta lavorando bene, ci auguriamo che continui di questo passo, ma che soprattutto si impegni per lo sviluppo e la ripresa economica della nostra regione. Detto questo, prima di passare a un altro argomento, bisogna ringraziare intanto gli sponsor, ne dico soltanto uno giusto per dare il benvenuto anche a loro, senza i quali non sarebbe possibile andare in onda, ed è naturalmente uno sponsor che ci segue ormai da diverso tempo. Sto parlando di Italfinestre, per le vostre porte d'interno, ma non soltanto, per i vostri infissi, per le vostre zanzariere, per le maniglie, che insomma c'è un vastissimo assortimento. 329 451 5691, Italfinestre lo trovate in esposizione in via Roma 2H a Cerda, in provincia di Palermo. Quindi ricordate questo nome, l'inverno è rigido, qualche spifforo può sempre entrare, ricordatevi questo nome. Intanto, prima di andare avanti con gli argomenti, desideravo un attimo mettere un brano, dedicare un brano musicale a una persona che me l'ha chiesto stamattina, ed è un brano che lascio il libero arbitrio di, ecco, un brano di una persona che ho avuto, vedrai il titolo del brano, vivi e vedrai. Ah, vedi, ma che straordinario il mio fonico. Ah, dimenticavo di salutarlo, Asharawi, come sempre. Vivi e vedrai è un brano molto bello di un cantautore straordinario, quale Amedeo Minghi. Io lo dedico a questa mia amica che mi ha fatto la richiesta stamattina, a Mariangela. Ciao Mariangela, buona giornata anche a te. Passato con me, lo sento che non guarisce, e per questo ognuno di noi ritornerà al posto suo. Ora non cerchiamoci più, se la passione svanisce, ci si può ferire, lo sai, cercando ancora un perché. Non lo hai deciso tu, non lo decido io, l'inizio di un addio. C'è un amore vuole nascere e ci sta portando via, non dovremo mai rimpiangere quel che siamo stati. Lo sai cos'è, lo so, questo amore deve crescere, non si può fermare ormai, vivi e vedrai. Come abbiamo fatto io e te, siamo vapore nel vento, senza che nessuno di noi possa spiegarsi il perché. Sempre c'è qualcuno che poi sa perdere il suo sentimento, non ha più rispetto, lo sai, e la ragione dov'è? Non lo hai deciso tu, non lo decido io, l'inizio di un addio. C'è un amore vuole nascere e ci sta portando via. deciso tu, non lo decido io, l'inizio di un addio. Allora, siamo un'altra volta in diretta. Vi ho parlato di Italfinestre, visto gli spifferi che possono entrare nelle vostre case. Beh, recatevi in questo showroom straordinario, acquistate con molta tranquillità, soprattutto sono prodotti straordinariamente buoni e durano nel tempo. Dobbiamo avere adesso un collegamento, ma dicono che sta sfuggendo, quindi abbiamo problemi tecnici. Torniamo in studio, abbiamo tre personaggi in cerca d'autore, diceva una, no? Sono tre illustri dottori, professori. Uno è alla mia sinistra ed è il dottor Mario Presti, che saluto e ringrazio per essere intervenuto in trasmissione. Alla mia destra invece è una donna, e che donna ragazzi, straordinaria, ha una memoria elefantiaca, la professoressa Loredana Ollà, detto bene, sì, grazie. E grazie anche a lei per essere con noi. E poi dulcis in fundo, dicevano i latini, per usare, insomma, per far capire che siamo eruditi, quindi, no? È un altro nome di prestigio, che è il professore Filippo Greco. Grazie anche a lei, peraltro ci accomuna il nome di origine greca, insomma, noblesse oblige, dicevano i francesi. Va bene, allora vi do una chicca in anteprima. Il liceo artistico, anzi ve l'ho già letto, ma lo ribadisco per chi fosse stato distratto in questo momento, Diego Biancamato a Cefalucci, è una conferenza interessantissima a mio modesto punto di vista, il 14 dicembre, quindi domani 2012 alle ore 11:30. I relatori li sentirete tra poco, perché sono qui già in studio, ve li ho appena presentati. Il tema è la legalità a 360 gradi. Adesso cercheremo di capire di cosa si sta parlando. Uno sente dire legalità, ma dove? In campo politico, in campo medico, in campo etico, dove, in quale campo? Ma in tutti i campi. Qualche volta, ricordo a chi si fosse messo in ascolto in questo momento, abbiamo avuto il grande piacere e privilegio di avere in trasmissione, non in presenza fisica ma via etere, il professor Mannino, che tra poco sentiremo, che è il presidente di questa associazione meremerita del Parlamento della Legalità. Ha fatto diverse battaglie, ne parleremo ancora una volta con lui, ma cominciamo con gli ospiti in studio. Io gradirei che la regia, se mi ascolta, mi abbassasse un po' l'audio musicale dentro. Ecco, oh, finalmente possiamo parlare. Allora, comincio con la prima domanda con il professor dottor Mario Lopresti. Il microfono dovrebbe essere acceso, vediamo se è acceso, sì. On, off, ecco. Funziona? Faccia prova. Prova, funziona. Adesso vediamo se la regia mi dà l'input. Pronto? Funziona? Yes sir, era fatta, diceva qualcuno. Se non l'ha fatta è uguale. Proviamo questo allora, proviamo questo qua. Altro gelato, con questo freddo insomma ci vuole. Allora dobbiamo essere sempre... Aspetti professore, forse adesso ci siamo. Ora ci siamo. Oh, che bella voce anche lei, insomma, dovrebbe cambiare mestiere anche lei, faccia lo speaker, insomma. Non si guadagna una lira, però si lavora bene. Allora, dottor Lopresti, nei tempi nei quali siamo, in questi ultimi 2 anni, 3 anni, abbiamo scoperto delle cose che potevamo immaginare, ma non così catastrofiche. La legalità in Italia è un discorso di attualità, una cosa che tutti i giorni, insomma, risalta agli occhi della gente, leggendo i giornali, leggendo e vedendo le televisioni, le interviste, eccetera. Parliamo di legalità prima a 360 gradi. Di cosa vogliamo, come si fa ad essere cosa bisogna fare per avere una certa legalità? Chiamiamola quella morale e poi parliamo di legalità giurisprudenziale. Guardi, la legalità non si può imporre per legge o per decreto. La legalità è qualcosa che nasce dal di dentro, cioè dire qualcosa che parte dal profondo dell'uomo, il rispettare le regole, rispettare l'altro, rispettare il diverso. È qualcosa che deve scaturire, non in forza di una imposizione esterna, perché mai nessuno lo farà. E chi ruba penserà che rubare è qualcosa che gli fa risparmiare un po' di denaro, o è stato il furbo della situazione, e così per tante altre cose. In fondo, se non è il cuore dell'uomo che cambia, le istituzioni possono fare e fanno, ma è uno sforzo il quale è costretto sempre ad arrestarsi. Mi consenta se la fermo un attimo, professore. Lei parlava delle istituzioni, ma anche lì, ahimè, parliamo sempre del nostro amato Stato italiano, no? Non andiamo oltre i confini. Ahimè, anche lì ci sono delle défaillance non indifferenti. La politica dovrebbe essere il mezzo, no? Attraverso il quale cominciare a veicolare, a far capire alla gente. La scuola, gli insegnanti dovrebbero iniziare, secondo me, già dall'infanzia a propinare ai ragazzi cosa significhi e quanto si sta bene ad essere legali nella vita, no? Rispettare le regole è il presupposto fondamentale e indispensabile. Aspetti che forse non si è sentito. Abbiamo un po' da fare stamattina. Adesso finisce lui, chiaramente facciamo il giro. Questo dovrebbe funzionare. Mi provi questo microfono per cortesia? Sì, quello funziona, a posto, ok. Allora, forse è meglio che ci spostiamo così, ecco, è l'unica. Dottoressa, prego, la poltroncina, guardi, le cedo la mia, ecco qua. Se sentite troppo caldo in studio, io posso anche abbassare i gradi. E allora, dicevamo. Il rispetto delle regole è il presupposto indispensabile, fondamentale. Cominciare da ragazzi. Nella Bibbia c'è un'espressione, io mi occupo della legalità nel percorso biblico, c'è un'espressione dove Paolo dice a Timoteo: fin da fanciullo hai avuto conoscenza delle sacre lettere, le quali possono renderti saggio a salute. E c'è un'altra espressione nella Bibbia dove è scritto che il cuore dell'uomo è il centro di qualsiasi cosa, tant'è che dice: figliol mio, dammi il tuo cuore. È il cuore dell'uomo che deve cambiare. Se il cuore non cambia, si possono fare tutte le leggi che si vogliono, ci possono essere tutte le pattuglie di polizia, di carabinieri, la gente continuerà a rubare, i politici continueranno a rubare, ci sarà la legge della giungla, anche se mitigata dalla legge dello Stato, affinché ne cives ad arma veniente, affinché i cittadini non vengano alle armi, ma sarà sempre uno sforzo. E poi, purtroppo, talvolta si dice da quale pulpito viene la predica, perché coloro i quali dovrebbero governare con dirittura, con rettitudine, con onestà, purtroppo rubano come gli altri o più degli altri. Quindi è uno sforzo che si fa. Di convinzione, di educazione, di cultura. La legalità è una cultura. È ovvio. Cioè, dire, la legalità è qualcosa che deve essere insito. Noi avremmo dovuto succhiare dalle mammelle di nostra madre insieme al latte la legalità per capire di rispettare l'altro. Nella Bibbia c'è un precetto: non farà agli altri, anagrammato, non farà agli altri quello che tu non vorresti venisse fatto a te. Ma quanti rispettano questo precetto? Pochi, molto pochi. Perché ognuno, veda, nel cuore dell'uomo è insito il voler prevaricare gli altri, il volere fare il primo della classe. Primeggiare, quindi, no? E sopprimere gli altri, prevaricarli. C'era una volta un tizio, si chiamava Cesare Marchi, ha scritto un libro, Siamo tutti latinisti. Sì, oltre che molti cantanti, poeti e santi in Italia. E in questo libro quel professore, parlando di Impectore, diceva che quando si crea un vuoto nelle istituzioni o in qualche... In qualche scala sociale, ognuno a un certo punto in pectore vorrebbe sedersi sulla prima poltrona, però più sono i petti e meno le poltrone, e quindi ci si deve accontentare di sedersi. Mi piace avere la radio, i mezzi di comunicazione, soprattutto la radio, dove la visibilità fisica noi l'abbiamo perché abbiamo internet, ma di solito la radio non trasmette in video l'espressività del volto o la, come dire, i movimenti del corpo, le posture che si assumono. Però la radio è importante sulla comunicazione verbale. Lei trasmette simpaticamente delle problematiche che ha hanno una certa durezza, insomma, e non va a usare termini impropri, nel senso che non vengono poi recepiti da chi ci sta ascoltando. Quindi complimenti per la comunicazione. Grazie. Dottoressa, invece, andiamo alla dottoressa Ollà. Le chiedo questo: secondo lei c'è maggiore, cioè la donna ha maggiore senso, no, di giustizia rispetto all'uomo? Io ho visto, seguendo per motivi di lavoro mio, è evidente, guardo molto i dibattiti televisivi, partecipo a delle tavole rotonde, e esce sempre fuori che il 99% di chi ruba, di chi non è moralmente, eticamente, non si comporta bene, non pone in essere la deontologia professionale, eccetera, eccetera, il 90%, non dico il 98%, ma il 90% sono uomini. Cosa c'è di diverso nella donna? C'è maggiore senso di giustizia? C'è forse la parte della maternità che spinge verso ad essere più corretti? Qual è il problema? Ma secondo me nella dicitura, la legalità è al femminile. Ah, ecco. Quindi, già in maniera così tosta, sì. Dico, la legalità è femminile, poi sicuramente delle donne c'è una predisposizione, ma anche una sensibilità maggiore rispetto a determinate tematiche. Voi, perché Dio ci ha creato in maniera differente, noi abbiamo un corpo calloso che rispetto a quello degli uomini è più consistente, e questo ci permette di fare tante cose contemporaneamente, di avere una sensibilità, sì, sicuramente, come diceva lei, legato al senso materno, che poi sia più o meno sviluppato in determinate donne, però comunque c'è la sensibilità all'altro, l'altro che, come diceva Levinas, mi completa, che io non devo fagocitare, ma devo assolutamente, mi devo mettere in relazione con quest'altro. Prego, prego, continui. Sì, sì, sì, questo, quindi secondo me è appunto è femminile, per cui indubbiamente non è un caso che gli uomini rubino, le donne no. Una risposta in contraddittorio, perché adesso aspetta la parte maschile. Sì, noi col professore Greco siamo, sì, spesso, no, dice la regia, amore e odio. Mi dicono alla regia che c'è il dottor Mannino in linea. Diamo la preferenza, sì, al dottor Mannino. Sì. Dottor Mannino, buongiorno. Buongiorno anche a voi. E ormai lei è di casa qui a CRM, soprattutto nella mia trasmissione. La ringrazio ancora una volta per aver risposto affermativamente alla richiesta di partecipazione. Ma guardi, è sempre un onore parlare intanto con lei e poi con la vostra emittente. Lei è troppo buono e gentilissimo. Allora, dottor Mannino, qui le tematiche si stanno muovendo su due fronti, cioè su un fronte che è quello poi della Bibbia, viene citata spesso dal professor Mario Lopresti, e non potrebbe essere che così. Io ho fatto una domanda ben precisa adesso alla dottoressa Ollà, che ha risposto in maniera esaustiva a mio modesto punto di vista. Ho chiesto, secondo lei, o è una mia impressione, da parte della legalità c'è più attenzione da parte delle donne che non di noi uomini, e la dottoressa, giustamente a suo modo di vedere, ha risposto perché già legalità è femminile, è al femminile, quindi poi la parte della maternità delle donne, maggiore sensibilità, eccetera. Lei condivide questo aspetto che recitava poco fa la dottoressa Ollà? Allora, io, con tutto il rispetto della professoressa Ollà, che ciao Nicolò, moltissimo per quello che fa e ciò in cui crede, dico che quando si parla di legalità non si parla, e non è necessario fare la distinzione tra uomo e donna, perché è un impegno culturale che appartiene a ogni uomo libero, a prescindere dalla sessualità che ha, perché ricordo benissimo come tantissimi uomini che hanno vissuto nella loro quotidianità quello che è l'impegno culturale a favore di una vita di libertà, di riscatto, di onestà, hanno sempre avuto accanto grandi donne. Penso in questo momento Giovanni Falcone con Francesca Morvillo, penso Paolo Borsellino per esempio con quello che sta portando avanti la sua, sì, donna. Dico, ci sono momenti culturali nella vita dove la donna accompagna, completa un messaggio, però è molto riduttivo dover dire chi la fa di più, perché non avrebbe senso. La fanno semplicemente gli uomini onesti, la fanno semplicemente chi ci crede, chi si mette in gioco e non imbarca solo la faccia, imbarca pure il cuore. Dottor Mannino, lei è sempre... Volendo fare una frase ad effetto, dico che la legalità la vivono e la testimoniano non solo chi ha mani pulite, ma anche chi ha un cuore puro, e questo non appartiene né all'uomo né alla donna, ma a un essere umano che crede liberamente e fortemente che sia arrivata l'ora di mettersi in gioco. Dottor Mannino, lei è sempre un fiume in piena, è piacevolissimo ascoltarla, fermare lei è come se fermassimo un treno a 220 km/h. Un freccia rossa. No, la peggio, no, ma è piacevole, perché comunque lei è munito di un'ottima retorica, e questo chiaramente ci fa piacere, e poi sa quel che dice, perché se dicesse le fesserie chiaramente non sarebbe ascoltabile. Invece dice delle cose sagge, però la mia riflessione sulla domanda che poi ho posto alla dottoressa Ollà mi sorge spontaneo in campo politico, perché su 50 candidati regionali, deputati regionali, provinciali, nazionali, chi viene maggiormente colpito per truffa, per appropriazione indebita eccetera, sono sempre, quasi sempre parlamentari maschi. Quindi voglio dire, da quello nasceva la mia riflessione, se la donna, e sì, ho chiesto, ho posto il quesito. Capisco quello che lei vorrebbe dire, però non cioè, quando si fanno nelle varie segreterie politiche, nelle varie beghe, sì, no? Che si cercano sempre di portare avanti per fare finta di volere una politica di trasparenza, di legalità e di giustizia, sì, questo la mattina, perché poi la notte si fanno i patti pure col diavolo, pur di avere, non dico la poltrona, ma avere lo scabello ai piedi del potente di turno, sì, ecco. Che le donne facessero sentire maggiormente la loro voce, che scendessero in campo, che si candidano, che dicano qualcosa di diverso, perché se poi nelle liste, nelle segreterie politiche ci vanno gli uomini, le donne se ne stanno anche a casa, oppure devono necessariamente essere familiari di vittime per poter dire ecco io porto avanti e faccio. Tu pensi che io domani mattina sarò a Cefalù, ma sabato mattina sarò a Maniaci, ai piedi dell'Etna, e so che è pure invitata Sonia Alfano. Per dire, ecco, questo mi farà piacere, che apriremo un dibattito forte. Le donne devono capire, devono comprendere che hanno dei ruoli che gli appartengono, che se sono in grado di fare politica possono anche farla, però io direi, caro mio, scusa se sono polemico, no? Ma stando tra i banchi di scuola, come la professoressa là sa benissimo cosa vuol dire, le donne dovrebbero pensare prima di tutto a non essere femmine ma a essere donne, secondo che ritornino ad essere l'angelo della casa, terzo che amino saldamente la loro famiglia e la tutelino da tutti, poi se hanno tempo vivino la politica dei palazzi, ma intanto che tante donne ritornano a fare le mamme, perché noi a scuola e non solo abbiamo casi disperati di mamme che hanno neo compagni e i figli ce li piangiamo noi con situazioni allarmanti. Scusa se ti dico questo. Dottor Mannino, io condivido, ma non vorrei che attirarci le ire funeste da parte di alcune donne che magari vorrebbero entrare in carriera o sono già in carriera e lei... No, ma fai, dico sì, attenzione carissimo amico mio, dico sì, però la donna deve riscoprire intanto il suo ruolo, la sua identità, rispolverare la sua dignità, poi comprendere quale contributo può dare in una società dove spesso e volentieri si fanno patti pure col diavolo. Bene, dottor Mannino, lei come sempre è molto esaustivo, idee chiarissime, le ha estrinsecate in maniera straordinaria. Noi ci fermiamo qui con lei un attimo, con lei ci fermiamo qui. Se vuole dire qualche altra cosa, pochissimi secondi ancora. No, vorrei solo abbracciare la collega là, che è lì, lo faccio così idealmente, ma domani mattina ci vedremo a Cefalù per questo meraviglioso convegno che ci vedrà protagonisti sul tema della legalità. Io mi ero ripromesso di incontrarla, si ricorda, qualche anno fa. Ma questo sarà però una trasmissione, quando tu potrai incontrare Nicola Mannino, perché sembra un mistero, insomma. No, no, questo lo so, ma ci mancherebbe, ma mi farebbe piacere avere in trasmissione per disquisire di questo e di altre tematiche ancora più importanti. C'è la dottoressa Olla che voleva rispondere, sì, prego. Sì, Nicola, vorrei salutarti virtualmente per il momento, domani ti abbraccerò fisicamente, condivido quello che hai detto, poi domani continueremo il dibattito in un'altra sede. Ti abbraccio e grazie per grazie la tua... Grazie a te, grazie per quello, permettimi di dirlo da insegnante di religione cattolica, grazie per quello che la comunità evangelica fa, alla quale usufruisco un attimo di questo microfono per dire e far sapere a tutti che la nona cittadinanza onoraria che mi è stata conferita a Villabate è stata chiesta dalla comunità evangelica, quindi è meraviglioso vedere che due realtà di fedi che potrebbero sembrare opposte trovano unicità nella forza dell'amore. Quindi al di là di tutto io vorrei far sapere questo evento, ma non perché riguarda Nicola Mannino, perché c'è stata una comunità evangelica che ha chiesto al sindaco di Villabate di conferire la cittadinanza onoraria a un insegnante di religione cattolica. Dico, questo mi onora, mi commuove e ringrazio affettuosamente sia l'emittente che sta trasmettendo questo e ancora una volta la mia splendida collega Lori, perché... Ecco, tu sei, cioè, datemi un appuntamento, insomma c'è una durazione continua, siamo tra le mani. Siamo impegnati entrambi, ma quindi ci mancherebbe, grande è sensibilità. Un affetto veramente che oltremodo che va oltre a quello che magari. Ma io ogni tanto intercalo qualche battutina giusto per non essere poi prosaici, no? Perché sennò i radioascoltatori si annoiano, perché tocchiamo argomenti di una certa rilevanza. Quindi essere prosaici. La cosa bella della tua emittente è che i tuoi radioascoltatori sentono tante belle notizie. Bravo. Notizie a colori avrebbe detto Nonnino, cioè Capannetto, no? il coordinatore del pullman. Notizie il colore, perché quello di bianco e nero quando già si vedono uno li spegne e dice basta, basta. D'accordo, allora Magnino, io ti abbraccio. Che ci vedremo. Sicuramente sì, se non ci dovessimo sentire o vedere personalmente, mi consentirei di farti gli auguri a nome della trasmissione, ma a nome dell'intero entourage di CRM, ma mio personale, di un Natale stupendamente caldo in famiglia e un felicissimo anno nuovo. Grazie di cuore, grazie di cuore. Ti abbraccio, buon lavoro. No, grazie, grazie a voi. Buon lavoro. Gradirei che intervenisse su questa argomentazione l'unico che fino a questo momento, insomma, è stato messo un pochino da parte, poi si chiama Filippo come me, il professor Greco. Prego, professore. Allora, una disamina a 360 gradi di quello che ha fatto, un sunto, di quello che ha detto il collega Mario Lopresti, quello che ha detto adesso il professor Mannino e naturalmente le risposte abbastanza, dico, esaustive da parte anche della dottoressa Olla. Prego. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, io volevo solo, come dire, puntualizzare che forse bisogna riportare il discorso su un fattore più laico e meno, diciamo, legato alle religioni, anche se, diciamo, le religioni hanno una notevole importanza. Io non ho proprio nulla contro le religioni, anzi, tutt'altro. Però è chiaro che bisogna mandare un messaggio al di là di quelli che sono gli aspetti puramente diciamo religiosi, e legare il discorso dell'illegalità al fatto che nel nostro paese noi stiamo attualmente pagando lo scotto di una politica che non ha fatto il proprio mestiere, nel senso che la politica deve mettere i paletti giuridici, legali, a quelli che sono i processi economici, i processi sociali, fare le leggi, ma non gestire direttamente i processi stessi. Questa confusione di fondo ha portato ovviamente a una mancanza di tensione etica che ha portato a una gestione compiacente, familistica sostanzialmente, con tangenti, raccomandazioni, scorciatoie di vario genere, di vario livello, che hanno da questo punto di vista creato non pochi problemi in termini generazionali. Io mi misuro ogni giorno con i ragazzi delle mie classi che oggi mi hanno espresso la loro preoccupazione per il futuro in maniera netta. Ho chiesto loro cosa ne pensassero di tutto questo, del fenomeno dell'illegalità, e mi hanno detto: professore, noi siamo ci sentiamo da una parte estraniati dai processi sociali totalmente, e dall'altra siamo preoccupati seriamente perché non riusciamo a immaginare un futuro. Allora, rubare i sogni a una generazione credo che sia stato l'atto più disonesto, più colpevole umanamente, che una generazione politica abbia potuto fare negli ultimi 40 anni. Perché vi ricordo anche i vecchi politici, ho conosciuto vecchi politici come Alessi, La Loggia, altri politici di altro genere, che facevano i politici senza pensare agli affari. Non avevano l'entourage, altri tempi. Avevano però un'attenzione etica, non parlavano di tensione morale, quindi non confondevano la religione con la socializzazione. Bravo. Con quello che è l'ambito tipicamente sociale, che è storico, che riguarda tutti gli individui in un territorio. La fermo un attimo, omonimo dal nome, Filippo. La fermo un attimo. Desideravo porre una domanda ad entrambi su questo argomento dell'etica e della politica, e poi devo fermarmi un attimo per una pausa pubblicitaria mia. Riprenderemo con l'argomento e andiamo a chiudere. Sono, mi pare, le 13 o le 14. Che ore sono? Saluto Esharawi. Lì fa le 13:52. Perfetto, ci siamo, quindi siamo un po' fuori, però ancora nei tempi massimi. La domanda è questa: sì, 12:52, perfetto, è 59. Madonna, io non voglio essere. Beh, benissimo. Allora, torniamo ad essere seri. Due cose importanti. Lei prima citava Gesù Cristo, citava la Bibbia, ha menzionato dei passi importanti. Ai tempi dei Romani, quando Gesù fu crocifisso, quindi sotto Ponzio Pilato, mi pare che Gesù Cristo abbia lasciato scritto cosa bisognava dare a Cesare quello che era di Cesare, quindi la giustizia terrena, e dare a Dio quello che era di Dio. A questo proposito, ai tempi e ai giorni nostri, prima di citare Sofocle, oppure di citare una bella lettera che io ho letto qualche tempo fa a proposito della democrazia, di cosa significa la parola democrazia, non solo l'etimologia della parola democrazia, cioè il potere del popolo, che in Italia insomma, mi pare che sia un po', si sia un po' sbiadita, ma un certo Pericle nel 420 avanti Cristo scrisse questa lettera ai propri ateniesi, dove enucleava cosa fosse la democrazia per quanto attiene Atene. Noi ad Atene facciamo così, diamo il posto di responsabilità a quel signore, ma non per farlo diventare grande, ma perché è meritevole, perché ha dato tributi al nostro Stato e quindi merita di avere quel posto. Mi pare che adesso le cose stanno andando diametralmente opposto a quello che diceva Pericle e soprattutto a quello che diceva Gesù Cristo. Date a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Diamo tutto a Cesare, in sostanza. È finita così ultimamente, professore. Prego. No, il fatto, io riprendo il discorso del professore Greco, c'è una confusione e questa confusione fa sì che non si definiscono bene i ruoli, e la mancata definizione dei ruoli, per dirla con i romani, produce una confusio ordinem, c'è una confusione nelle cose, e quindi la politica non viene più vista come un mezzo per servire e amministrare la collettività. Quello ma che viene diceva vista Pericle, come un fine. Beh, diceva il professor Mannino, per stare allo sgabello del potente di turno, non alla poltrona. Cioè si contentano pure dello sgabello. Ora, oppure l'importante è essere nell'orbita del potente di turno, ma per soddisfare delle bramosie proprie. Non per la collettività. Non per la collettività, cioè dire l'altro è scomparso, è finito. Ci sono solo io. Ci sono solo io e soltanto io. Siamo addirittura nel basso impero. Non c'è più la collettività, non c'è più la ricerca della soddisfazione dell'altro. Pensare che l'altro è uguale a me e io potrei avere le stesse necessità che ha l'altro, oppure l'altro potrebbe essere da me offeso completamente. Non ce ne frega niente. Cioè dire la cultura dell'altro non esiste più. È una società prettamente egoista. Eppure, professor Mannino, abbiamo avuto esempi eclatanti di altruismo verso un popolo intero, da Gandhi andare a un altro personaggio che io adoro moltissimo, ho letto delle cose su questa persona, Martin Luther King. Io ho un sogno, quello di integrare, no, la razza nera con i bianchi in America, e ci ha rimesso la vita. Per cui grandi personaggi della storia, non per forza italiani ma cosmopoliti, hanno dato dimostrazione al mondo, all'umanità, che si può dare tantissimo pur non ricevendo nulla in cambio. Non è che gli davano miliardi di lire e poteri chissà cosa a Gandhi o a Martin Luther King. Ma la stessa Diana cercava di amalgamare, cioè di far mettere sullo stesso piano, e lì forse ha sbagliato con qualcosa, al mio modesto punto di vista, la casa reale, portarla più verso la gente dei comuni mortali, no? Scende dall'Olimpo e metterti in diretta comunicazione. Tutto ciò forse l'umanità ancora non l'ha percepito, e io ho un terrore che qualcuno su di noi si possa un giorno arrabbiare di non meritare tutto quello che io ho fatto per voi. Quello mi auguro che non lo faccia mai, ma sinceramente noi ce la stiamo mettendo tutta per farlo arrabbiare. Prego, dottoressa. Sì, io proseguo il discorso del dottore Lopresti, in quanto Cristo è l'esempio più eclatante di non di, di egoismo ma di altruismo. Quindi siamo nel periodo natalizio, quindi tutti pensano sicuramente al Natale come nascita di siamo Cristo, tutti più buoni, si diventa più Natale, buoni, le canzoncine, i panettoni. Però se veramente Cristo è nella nostra vita, nel nostro cuore, allora come esempio, come logos spermaticos, diceva un teologo, spieghiamo sì, per chi non è allora, avvezzo logos, al greco. Logos appunto è Cristo, il seme di Cristo dentro di noi, che ci permette, così come le citava Martin Luther King e altri personaggi, non Gandhi per esigenze religiose diverse, ci permette di... No, io parlavo, di come umanità, di essere umano a servizio della pace intanto, ma a servizio del suo paese. Sì, però questo logos spermaticos ci permette comunque di incarnare Cristo e darci agli altri. Anche questa legalità umana è divina, perché domani in sede di conferenza parleremo proprio della differenza tra il giudizio umano e il giudizio divino, quindi portare, ricondurre le leggi affinché possano essere sottomesse a quella che è la legge per eccellenza, che è quella della parola. Grazie dottoressa. Prego, professor Greco. Volevo solo intervenire su un fatto che riguarda il concetto di potere a cui si rifaceva il dottore Lopresti. Il potere di per sé non è una cosa cattiva, perché si tende a associare sempre al potere qualcosa di malvaggio. In realtà il forse potere, da noi nel nostro sì, civiltà, sostanzialmente è un fatto culturale, perché in realtà il potere noi dobbiamo sempre immaginarlo come qualunque cosa sotto una duplice veste. Il potere può essere utilizzato bene o utilizzato male. Questa è la verità. Un potere utilizzato bene, inteso come servizio alla collettività, ha un significato. E quindi è legato alla parte migliore dell'essere umano. Sono mentre d'accordo. Il potere usato per finalità esclusivamente personali o criminali è chiaro che è un contrasto, ed è in contrasto netto con quello che sono i dettami di base della nostra società, che è quello di progredire tutti assieme senza abbandonare possibilmente nessuno. Grazie professor Greco, io vi fermo un attimo perché devo dare spazio, se no le trasmissioni non le possiamo fare, ci sono gli sponsor, bisogna ringraziare. Allora vi parlo di Cascino, che è una firma straordinaria nel mondo del design del futuro. Pensate che a Termini Imerese c'è uno showroom straordinario, vi invito a visitarlo, perché sono oltre 40 anni che Cascino mette le firme su tutto quello che serve per l'arredo della vostra casa, e quindi andate subito a trovarlo, a visitarlo, andateci anche a nome di Filippo Glorioso, è una persona meravigliosa, il personale è altamente specializzato. Le firme che troverete all'interno di questo showroom sono meravigliose, danno già il senso di che cosa, di cosa stiamo parlando, da Scrigno a Gidea a Trenda a Devon a Gazzotti, insomma. Poi per i del Camin, che sono le firme veramente da portare nelle vostre case, non per sentirvi importanti, ma perché vi danno la garanzia nel tempo dei prodotti che sono veramente straordinari. Quindi vi ricordo Cascino, cucina, esposizione, la tua casa in mostra, dice lo stesso Cascino, e pensate, da più di 60 anni la tradizione di puntare all'innovazione. Cascino esposizione e design, qualità in uno showroom proiettato al futuro. Andatelo a visitare, vi do l'indirizzo subito. Allora, a Termini Imerese, intanto, in provincia di Palermo, via Crisone 14, il telefono per le vostre richieste, un appuntamento casomai con la direzione 0991 81 15 455. A seguire, sempre la famiglia Cascino, ma in franchising, vi presenta Expert. Dove lo trovate? Lo trovate a Lascari, lì c'è Angelo, il figlio di Pietro Cascino, e naturalmente all'interno troverete tutto quello che Expert vi può mettere a disposizione, dagli hi-fi ai telefonini, soprattutto ai computers. Andiamo avanti con gli elettrodomestici di tutte le nature, tutte le marche, di tutti i prezzi, ma la cosa più bella è che se voi portate un pezzo da rottamare, tipo un frigorifero che vi sia guastato a casa vostra, non buttatelo via, o se avete la confusione di come fare, portatelo all'Expert lì da Cascino a Lascari, e loro vi ritireranno il pezzo obsoleto sostituendolo con quello nuovo, e penseranno loro alla rottamazione. Gli sconti sono straordinari, soprattutto sotto le feste natalizie, e Esperte Cascino vi auguro a tutti quanti buon Natale. Dunque, prima di chiudere, c'è ancora qualche altro indirizzo? Sì, ah, perfetto, c'è il number one a Castelbuono, insomma è straordinario. Dovete visitare Easy Chic di Spallino Nunzio, perché se c'è freddo, vi si è guastata la stufa, siete sprovvisti, non vi preoccupate, perché Easy Chic di Spallino vi offre le stufe a pellet, ve le comprate, Michele, ve le offre, firmati Bartolini e Linkar. C'è anche l'assistenza tecnica, poi abbiamo il pellet, faggio, abete bianco, le stufe di zibro liquido che funzionano benissimo, e poi tutto per il Natale, dagli addobbi ai giocattoli per i bambini, con i lampadari che sono veramente di ottima fattura, li trovate, pensate, a partire con lo sconto del 40%. Quindi ricordate Easy Chic di Spallino Nunzio in via Geraci, già via Camar, a Castelbuono. Detto questo, allora io dovevo dare ancora voce, no, c'è ancora un'altra. Sì, grazie. Cosa cercavamo? Eccolo là, ecco, l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Allora, parafarmacia della dottoressa Guardì. Aveno, prodotti per il corpo dei peli sensibili, che stiamo parlando delle donne, ma anche gli uomini possono fare uso del visage, perché è straordinario. Integratori vitamine Mix, Junior e Pappa Reale, esclusivista Roche, cosmesi, viso, corpo, antirughe, anche per noi uomini, insomma, le rughe si fanno vedere, bisogna dare una toccatina, se no le mogli si fanno belle e ci passano i saluti. Prodotti per l'infanzia, poi ci sono i presidi sanitari, cosa sono? Beh, se io mi rompo la gamba, c'è il tutore della gamba, c'è la stampella, questi sono i presidi sanitari. Lo lo trovate presso la parafarmacia della dottoressa Guardi in via Dante Alighieri 116 a Castelbuono. Il telefono per eventuali informazioni 0921 67 22 54. Grazie a tutti questi sponsor. Prima di chiudere la trasmissione, facciamo un ultimo giro con i nostri ospiti, sperando che si siano trovati al loro agio, che gli abbiamo fatto dire tutto quello che volevano dire. Allora, siamo nella fase conclusiva, chiudiamo con l'appuntamento, intanto lo diamo per dunque domani, il 14 dicembre, non mancate perché di sicuro interessa, alle ore 11:30 presso il liceo artistico Diego Bianca Amato a Cefalù. I relatori li state sentendo parlare qua, quindi non vi annoino perché sono anche spiritosi, tra loro scherzano pure. Sicuramente la tematica è di una certa rilevanza, si parla di giustizia, di legalità, e quindi a questo punto io farei il giro al contrario, partirei proprio dalla moderatrice. Io stamattina ho uno stress terribile, vengo dalle montagne. C'è il dottor Garofalo? Ah, ecco, dovevamo parlare col dottor Garofalo. Allora, ci fermiamo un secondo perché stamattina siamo arrivati proprio al photo finish. Il dottor Garofalo, di cosa stiamo parlando? Allora, al 17° congresso nazionale SIMA, Società Italiana di Medicina e dell'Adolescenza, Palermo, 14-15 dicembre 2012, Mondello Palace Hotel, Viale Principe di Scalea. Dunque, il 14-15 dicembre i maggiori esperti nazionali e internazionali nel campo della neonatologia e della adolescentologia si riuniranno a Palermo per il 17° congresso SIMA. L'obiettivo è quello di realizzare un aggiornamento comune tra pediatri di famiglia, medici di medicina generale, pediatri endocrinologi dell'adulto, per elaborare linee di comportamento condivise, rafforzare l'integrazione tra la medicina territoriale e quella ospedaliera, superare ostacoli strutturali, organizzativi e culturali per le costruzioni di reti e percorsi assistenziali. Dunque il promotore è il professore Garofalo, che dovremmo avere al telefono. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, eccomi qui. Ah, finalmente, professore. Allora, la ringrazio. Non mi dica così, mi fa sentire prezioso. No, finalmente, perché sa, io con molti medici ho un ottimo rapporto e spesso li invito in trasmissione, perché la mia trasmissione porta per titolo Carta e Penna, quindi faccio prendere appunti ai miei radioascoltatori. E lei peraltro qui, dunque, in questo 17° congresso nazionale di cui ha detto adesso ho dato lettura, e insomma si parla di argomenti veramente interessanti, soprattutto per quanto attiene l'adolescenza. Allora, intanto parliamo di questo congresso che avverrà a Palermo due giorni, 14-15 dicembre. Peraltro parteciperanno nomi di alto bordo per quanto attiene questa branca. Cominciamo a parlare delle malattie che possono colpire gli adolescenti, professore. Bene, io però, se lei mi permette, prima delle malattie, parlerei di come evitare che vengano. Ah, ecco, parliamo della prevenzione. Prevenzione talvolta è uno slogan, poi dentro non c'è nulla. Se noi te lo traduciamo in soldoni, prevenzione sembra un'azione sociale che riguarda gli altri. Sì. E quindi uno pensa che ci devono pensare altri, pensa che quelle cose possono succedere ad altri. E invece stare attenti o comunque mettersi in guardia per alcune condizioni che possono comparire, talvolta poi nascondersi e quindi non vanno seguite correttamente, mi pare questo un atteggiamento che non crea allarme e medicina mai, sì, ma crea responsabilità. E la responsabilità della salute attiene a tutti, attiene ai genitori, attiene agli insegnanti, attiene ai medici, ma attiene soprattutto ai ragazzi che crescono. Sì. Quindi il primo messaggio è per i ragazzi. Adolescenti significa giovani che sono dai 13 ai 23, 25 anni, perché adesso l'adolescenza come termine ultimo non si è più spostata al completamento dello sviluppo fisico, sì, quindi, ma al completamento dello sviluppo psicofisico. Lei mi insegna e sa bene come i ragazzi crescano davvero un po' più tardi rispetto al passato, e questo è sotto gli occhi di tutti, al di là di slogan che sono stati utilizzati da politici di giornata, bamboccioli o quant'altro, non va bene, però è un dato di fatto che in effetti i ragazzi crescono più tardi. Perché? Perché le condizioni sociali, familiari, ambientali sono, li proteggono, cambiate, li allungano, e quindi parliamo noi di una responsabilità della quale i primi protagonisti devono essere i ragazzi, sì, essere i primi custodi della propria salute, quindi attivarsi più che per percorsi diagnostici orientati a malattie, per percorsi virtuosi di comportamenti orientati a rinviare o comunque a ridurre la probabilità di ammalarsi. Questo è, credo che è un concetto generale. Visto che è una radio che non è dedicata soltanto al personale sanitario o operatori del settore, ma vuole creare coscienza e consapevolezza, mi pare un bel messaggio d'apertura in generale per questa tematica dell'adolescenza. Professore, allora abbiamo parlato della prevenzione, che è fondamentale. Oggi molti giovani, per esempio, assumono oltre alle sostanze stupefacenti, ma ahimè molti assumono alcol. I danni che possono provocare quelli dell'hashish, della marijuana, eccetera, bene o male si sanno, ma si sottovaluta molto l'aspetto dell'alcol. Quali sono invece i danni che possono causare nell'organismo di un adolescente l'alcol assunto snoderatamente? Lei dice molto bene, perché purtroppo l'alcol non viene più considerato una droga, ma di fatto è una condizione che rende schiavi, quindi essendo addict al drinking, cioè dipendenti dal bere, non si sta attenti, non si sta in guardia. Quindi il primo messaggio da dare ai ragazzi è: attenzione, tutti gli alcolici vanno maneggiati con cura, anche da quelli più banali, quelli possono essere i soft drink o comunque una birra ripetuta o quant'altro. Quindi il messaggio è: non pensate soltanto che vi siano i super alcolici che vanno banditi, ma bisogna stare attenti anche ad altre forme di alcolici meno appariscenti, ma che ugualmente possono dare dei danni. I danni quali sono? Ma l'alcol produce di sicuro malnutrizione. Noi abbiamo l'idea delle persone alcoliste croniche, sappiamo bene come sono emaciate in viso, ecco, quella è la condizione finale. Però bere alcol nella fase di crescita certamente non aiuta i processi di crescita dei vari organi ed apparati. Accanto a questo vi è poi un aspetto di sicurezza personale e sociale. Inevitabilmente l'alcol appanna alcune performance, direi di più, inizialmente rende sì che tutto diventi più facile. Uno dei motivi per cui gli incidenti stradali, o comunque le morti, perché purtroppo si parla anche di morti, ahimè sì, serali, notturne, perfetto, sono legate al fatto che l'alcol non dà una percezione di non essere allerta, al contrario, in una prima fase rende tutto più facile, cioè l'alcolista si disinibisce, quando è alla guida pensa che sia diventato un supereroe, o comunque in qualche modo sia diventato un grande pilota, ecco, in grado di gestire le condizioni interne ed esterne dell'autovettura. Purtroppo questo è il motivo per cui quando si beve molto si va su con le velocità, e inevitabilmente poi dietro l'angolo ci sta l'impatto. Quindi una avvertenza è: attenzione ragazzi, perché l'alcol davvero dà questa apparente disinibizione che foriera purtroppo dei grandi incidenti, di gravi lutti in famiglia, tra l'altro, giovani stroncati a 20 anni, 18 anni, 16 anni. Assolutamente, professore. Difficilmente l'ubriaco fradicio si mette alla guida. No, assolutamente, perché non riesce a stare in piedi. Benissimo, non si regge sulle proprie gambe. Non bisogna pensare che quelli che vanno a schiantarsi con le auto siano persone che non si reggono in piedi, no, al contrario, questa è un'avvertenza da diffondere. Non è tanto il fatto, l'entità comportamentale del danno da alcol, quanto questi iniziali comportamenti di disinibizione, di facilità e di semplicità nelle variazioni motorie e quindi anche nella guida, che poi invece sono il trabocchetto purtroppo per i gusti di cui parlavamo. Professore, il tempo purtroppo è tiranno, io devo volgere al termine, ma parlerei con lei di tantissime altre patologie che possono colpire i giovani e gli adolescenti. Io mi conserverò, se lei me lo consente, il suo numero di cellulare ogni qualvolta avrò necessità di ascoltarla su certe tematiche di giovani e quant'altro. Mi farà la cortesia, tempo suo permettendo, disponibile nei nostri confronti, di intervenire. Ma prima di lasciarla, professore, di fargli gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, desideravo farle un'ultima domanda. I giovani di oggi assumono, parliamo di cibo in questo momento, un po' di, si mangia in maniera sbagliata, non si mangia verdura, non si mangia pochissima carne, si mangiano invece molte patatine fritte, molta Coca-Cola, molta roba gassata, ma soprattutto le tortine, quelle preconfezionate, quindi voglio dire, non fanno una sana alimentazione, e questo è cosa, come danni, oltre all'obesità, e molti bambini nella fase adolescenziale sono abbastanza obesi, si parlava degli americani prima, ma loro hanno scoperto la dieta mediterranea, noi ce l'abbiamo di casa però non l'applichiamo. Cosa bisogna fare, professore? Bisogna rieducare i genitori, bisogna rieducare i genitori che cucinino a casa, che riprendano l'abitudine di pasti consumati insieme e controllati riguardo alle fonti originarie del cibo. Purtroppo il mangiare di fretta, il mangiare in piedi, il mangiare dappertutto comporta il non poter controllare realmente la qualità e dei cibi. Quindi al di là delle scelte degli alimenti su cui lei giustamente stava insistendo, vi è anche una mancata osservanza della bontà degli elementi primari che sono alla base sulla nostra tavola. Quindi io direi ancora una volta, i ragazzi non sono altro che lo specchio delle abitudini che si vivono in società e nel nucleo familiare. E allora una cultura dell'alimentazione deve passare per i ragazzi, ma deve essere una cultura che transita senza diktat. Non deve transitare con il meccanismo di questo si può fare, quello non si può fare, anche in ambito alimentare, perché ahimè quando si comincia a mettere l'attenzione sul cibo, lì possono annidarsi comportamenti di ortoressia cosiddetti. Sa cos'è l'ortoressia? Stare attenti a tutto, stare attenti alle quantità, e dietro l'ortoressia molto spesso ci sono comportamenti mascherati di bulimia o di anoressia. Bravo, quindi professore. Io direi mai, mai accanirsi con il cibo. L'alimentazione è vitale, l'alimentazione è una fonte insostituibile. Riappropriamoci delle fonti della fonte dell'alimentazione. E grazie a Dio in Italia non ci manca una buona sana alimentazione, professore, con tutti. Però lei quante volte mangia a casa? Io spessissimo, per fortuna saltuariamente fuori qualche panino, ma di solito pranzo e cena a casa, magari non alle 13:30, alle 14, ma quando sono fuori per motivi di lavoro, le capisce che il panino magari non metto l'insaccato, preferisco il formaggio, no, magari quello spalmato. Però voglio dire, sì, ha ragione lei, la vita frenetica ci comporta anche una non sana alimentazione. Un'ultima domanda molto stringatamente, professore, e concludo anche lei stringatamente, la prego. Anche se è piacevole parlare con lei, non soltanto di medicina, un uomo straordinario. Mi consenta questa domanda: per Natale un pezzetto di panettone in più, un bicchiere di vino in più e un goccino di spumante, il giovane lo possiamo consentire? Sì, assolutamente. Non è lo straordinario che uccide, è l'ordinario. Grazie, anche professore. In ambito alimentare. Grazie, professore. Sicuramente, grazie, se lei mi dà l'imprimatur, la chiamerò qua. È uno dei motivi per cui c'è questo congresso, è proprio questo, di fare buona cultura di conoscenza diffusa per tutti. La chiameremo spesso in trasmissione per ragguagliarci su altre situazioni e patologie. Grazie professore. Buon lavoro. Grazie a lei, buon Natale a lei e famiglia. Allora, era il professor Greco, come avete visto simpaticissimo anche lui. Allora, facciamo un giro di consultazione finale a chiudere, quindi Garofalo, scusate, i lapsus freudiani, ogni tanto i lapidus, disse un mio amico una volta facendo, vedi un po' il professor Greco, eccolo là, lo menziono spesso. Allora, cominciamo dal professor Greco, proprio così, e poi datevi la parola l'un con l'altro, ma mi raccomando, stringatamente, siamo fuori del tempo massimo. Grazie, prego. Allora, dunque approfitto per dare un appuntamento per il prossimo convegno che si terrà il 29 dicembre a Lascari. avrà sempre lo stesso oggetto sulla legalità e l'illegalità. Volevo solo chiudere, se mi è permesso, questo breve intervento. Le è concesso, professore. Grazie, grazie. Considerando anche il fatto che molti giovani non hanno speranza nel futuro, di fatto, allungano la loro permanenza all'interno delle famiglie oltre il dovuto. Ricordo che in America al 18° anno di età bisogna dichiarare se si ha un figlio in casa, e se il figlio in casa rimane senza lavoro si pagano più tasse. Quindi è uno strumento attraverso il quale sostanzialmente dire ai giovani: cominciate a volare, cominciate a camminare sulle vostre gambe. Stiamo parlando di un paese che, voglio dire, se tu hai delle capacità riesci ad emergere, ecco, nonostante ci sia la depressione economica. In Italia così non c'è la meritocrazia in Italia, professore. Sì, assolutamente. E la nostra generazione li ha tartassati questi ragazzi. Allora, questo bisogna anche dirlo. Infatti il problema della legalità o dell'illegalità apre esattamente questo scenario. L'illegalità ha permesso che le professioni e le professionalità non venissero premiate, perché se due persone a parità di condizione, uno è preparato ma di fatto non ha pagato tangenti, verrà sempre scalzato da qualcuno che prendendo dando tangenti prende una scorciatoia, e quindi di conseguenza il nostro sistema sociale sarà gestito da una classe dirigente sempre più scarsa. Questa è la verità. Le do ragione e condivido in pieno. Professore, prego. Beh, lui, ha sollevato un bel problema. Solleva un problema che non possiamo più disquisire. Magari faremo un'altra puntata, se volete, un altro momento, non c'è problema. Se vi ha fatto piacere partecipare alla trasmissione, volentieri, sia Angelo Arduino come editore, io come conduttore, siamo aperti ad altri incontri, non ci sono problemi. Prego, a concludere. Perché se tu non hai certi cognomi, non puoi accedere a determinati posti. Ed è un problema che molto scoraggia le giovani generazioni. La meritocrazia, professore. Il merito non esiste più. Esiste una spedizione postale da sempre, ma che oggi è diventata di gran moda e viene parecchio ricercata. La raccomandazione. Mi manda Picone, si ricorda, ecco. Comunque ha messo film, Mi manda Picone. L'augurio mio per il periodo che ormai andiamo a vivere, io nel periodo natalizio non faccio auguri e manco desidero riceverne, perché sono convinto che siano delle ipocrisie. Siamo tutti più buoni, sì, questo è ma vero. In definitiva è una buona ipocrisia. Saremmo tutti più buoni se il nostro modo di pensare e di agire si uniformasse di più alla Bibbia, agli insegnamenti biblici. Allora veramente tutti saremmo parecchio più buoni. Grazie, professore. Prego. Professoressa. Aspetti, forse non funziona il telefono. Prenda l'altro microfono. Eccolo là. Sì, sicuramente cercando di dare ai nostri giovani che abbiamo in classe ogni giorno degli esempi chiari, concreti. Qualcuno mi ha detto una volta: si educa con l'esempio e non con le parole. Quindi cercando il più possibile di essere delle loro guide, con i nostri limiti, con le nostre defiance. Però se i giovani vedono in noi delle guide, sicuramente il futuro può cambiare, perché i nostri alunni sono il futuro. Grazie. Quindi da Loredana Ollà è tutto. Grazie anche a lei, professoressa Ollà. Vi ricordo e ringrazio naturalmente gli ospiti che sono intervenuti in trasmissione. È stato un po' esiguo il tempo, ma non possiamo stare qui ore ed ore, i tempi sono dettati dal palinsesto. Quindi grazie al dottor Mario Lopresti, grazie alla professoressa Loredana Ollà e grazie naturalmente al mio omologo, ma soltanto di nome, Filippo, un nome insomma che dobbiamo portare con tanto orgoglio, Filippo Greco, che tra l'altro è il nostro nome, di etimologia della parola greca, e quindi da lì parte tutto un filone di cose che non mi sto qui adesso a dire, perché vi annoierei. Cosa io voglio aggiungere a conclusione? Ci auguriamo, noi che abbiamo 53, 46, 48, che abbiamo regalato a questi giovani una classe dirigente, estendo un velo pietoso, non vado oltre, abbiamo regalato una classe dirigente non certo all'altezza del compito, né morale né dal punto di vista etico. Far politica ce lo insegnano i greci, bisognerebbe tornare a leggere la Repubblica di Platone, se non erro, perché la confusione è oppure quello che dicevo prima. Basta leggere anche la Bibbia per capire la differenza tra giustizia divina e giustizia terrena. Lo stesso Cristo diceva che c'era una giustizia terrena. Basta ricordarsi che chi sta su una sedia a rotelle non è diverso da noi, ma è diversamente abile, e quindi va aiutato in quel senso, senza barriere architettoniche. Se un ragazzo è figlio di un contadino ma ha un'intelligenza, un grado di intelligenza superiore a chi è figlio di un medico, deve essere portato avanti, perché quello sarà un sicuro futuro medico bravo, sarà un ingegnere capace di progettare delle case che non cadranno da lì al domani. E poi, perché no, se un ragazzo è un bravo artigiano, cose che adesso si stanno, oppure un bravo contadino, perché non aiutarli a creare aziende e a portare avanti lavoro, quello che la mia generazione invece ha tolto grazie a un malaffare tra politica e impero economico. L'augurio che faccio è che il Natale non dico che deve dare la possibilità di essere tutti più buoni, perché poi ognuno di noi, passata la messa, data la benedizione, torna a casa propria, bestemmia e fa quello che gli pare, ma quantomeno che ci possa regalare una classe dirigente nuova, capace, non ce ne frega niente di qualsiasi fazione provenga, capace di gestire la res pubblica con responsabilità di servizio e non di comando, senza che si appropri di nulla, ma anzi ci metta pure di tasca se è il caso. L'importante è che dia sbocco ai giovani, dia voce agli anziani, perché con 400 euro al mese di pensione non si vive, si vive male, e soprattutto dia dignità ai genitori di portare a casa una fetta di pane per i propri figli. Grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi, grazie agli sponsor, grazie agli ospiti in studio, grazie agli ospiti che sono intervenuti in trasmissione via telefono. L'appuntamento è per domenica, per la differita alle 9.30, 8.30 circa in poi. Se volete seguirci su podcast, fatelo pure. L'appuntamento io ve lo do per giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma. Un bacione a tutti, un grande abbraccio da Filippo Glorioso, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.